Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, lo sono le 10:08 prime e 27 secondi, qui in diretta dallo studio finalmente di un po' autunnale Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. I compari dei conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Buongiorno a tutti quanti qui insieme per farvi iniziare il fine settimana con qualche considerazione di economia, tra il serio e il faceto, il dolce e l'amaro. Di che cosa parleremo oggi, così potete immediatamente decidere se chiamarci all'800 24 00 24, 349 238 6666, come sempre per i messaggi. Allora, inizieremo come sempre con il nostro punto settimanale con Mario Seminerio, e il più sarà dedicato, come ovvio, agli sviluppi in corso nella vicenda della Banca d'Italia. Renzi, il PD, Gentiloni, Mattarella, resta Visco, non resta Visco, ma soprattutto la domanda è: ma non è che stanno tutti sbagliando, sopravvalutando quello che resta delle competenze della Banca d'Italia in una grande gara politica, mediatica, a non farvi capire che oramai non stiamo parlando di una cosa così fondamentale? Nella storia italiana è fondamentale, per le competenze che ha bisognerebbe molto più parlare di una cosa che da gennaio perde persino le competenze di vigilanza sulla BCC, che vanno nelle holding, e vedremo le vostre, le nostre opinioni, ma insomma è una cosa che dovrebbe essere in linea con quello che fa la BCE, sta nel sistema europeo delle banche centrali. Però è uno scontro politico nel quale c'è possibilità di capire quanto è complessa e talora barocca l'Italia, molto barocca. La figura sembra l'Italia che nel 600 non contava niente ma faceva finti tornei impennacchiati. Detto tutto questo, dopo la vicenda bancaria, noi abbiamo una prima parte fino alle 11 nella quale esaminiamo le sorprese fiscali che abbiamo capito fino a questo momento tra il decreto fiscale, di cui è uscito il testo in Gazzetta Ufficiale due sere fa, e quelle che affiorano, emergono e poi si sommergono carsicamente nel testo che manca. Ci sono delle bozze che girano della legge di bilancio formalmente già varata, ma lo sapete che in Italia si vara una legge di bilancio in bianco, insomma, abbiamo abolito anche le formalità del procedimento normativo, cioè tutto avviene per finta in Italia, e quindi nelle riscritture però emergono cose di cui parleremo, particolarmente significative e raccapriccianti, per così dire. Io urlerò perché la guarentigia per mantenere gli 80 euro solo ai pubblici dipendenti in caso gli aumenti di reddito da scatti retributivi solo per i dipendenti pubblici e non per i privati, a mio giudizio, è incostituzionale. Vabbè, e tu, Oscar, adesso griderò. Tu urli ad ogni piè sospinto, che facciamo notizia. Griderò, Oscar Giannino urla, e allora... Griderò perché è incostituzionale. E voglio sapere cosa la pensate voi, che gli mantengono gli 80 euro solo a loro perché si aumenta lo stipendio, e se invece gli aumentano lo stipendio il privato li perde. Ma voglio dire, l'articolo 2 e 3 della Costituzione, però detto questo, no, c'è la vicenda dell'IRI che viene retroattivamente cancellato, ci sono le mini patrimonialine sui bolli che affiorano, forse saltano ma restano, e bisognerà vedere su che cosa. C'è un nuovo regime della tassazione sui redditi da partecipazioni che modifica sostanzialmente per alcuni l'aliquota a cui saranno sottoposte. C'è la fatturazione privata, la fatturazione elettronica estesa a tutti i privati. Siamo così sicuri che non sia un bis su ancora più bassa scala del flop terrificante dello spesometro? Ci sono molte cose su cui discutere. C'è la web tax che arriva, ovviamente. Ci sono invece gli incentivi alla carta stampata fiscali. Dicono tutti che non c'è niente di nuovo fiscalmente nelle manovre, invece resta la parte più importante e significativa. Dopodiché, invece, nella seconda parte, un grande blocco dedicato a una questione che ci ha lasciato molto perplessi. Hanno sfilato nelle strade italiane gli studenti, insomma parecchi studenti, non gli studenti in generale, ma contro l'alternanza scuola-lavoro, e noi abbiamo avuto l'impressione che le classi dirigenti italiane non gli dessero una risposta adeguata. Quindi sull'alternanza scuola-lavoro chiamateci anche su questo per darci la vostra esperienza, dei vostri figli, se siete insegnanti, che giudizio ne avete di come è organizzata nei vostri complessi scolastici. Noi invece facciamo una riflessione approfondita, perché avremo sia uno studente a favore sia uno studente contro, avremo un imprenditore di un grande gruppo che crede profondamente nell'alternanza scuola-lavoro e una figura a noi cara che ha avuto un ruolo proprio al MIUR negli anni in cui si è scelto di investire di più su questa scelta. Oltre a questo, che cos'altro segnalare, Mario? Ma io farei un piccolo richiamo, perché è successo, diciamo, dopo la nostra ultima trasmissione di sabato scorso su Alitalia. So che può sembrare stucchevole, però lo ribadiamo, cioè il governo ha praticamente spostato di circa 6 mesi i termini per l'identificazione del fortunato vincitore della compagnia. E non è che non l'avevamo detto, Mario. No, però dai, ma cioè... esatto, ve lo stiamo dicendo in tutte le lingue da quando è iniziata questa vicenda. Quindi, però, vabbè, vediamo se siete un po' tutti quanti all'ascolto, sufficientemente onesti da dire che ve l'avevamo detto. Adesso ribalto io la posizione, anziché rompere voi i coglioni a me, li rompo io a voi. No, a parte questo, 300 milioni di prestito ponte, perché così la facciamo scollinare le elezioni, poi la restituzione con questo penalty rate del 10% entro novembre, perché qualcuno in questo paese si è fatto il convincimento, ha formato il convincimento che se noi applichiamo al prestito ponte un tasso di interesse usurario, come Europa comanda, il cosiddetto penalty rate, il tasso di interesse di penalità, allora noi possiamo andare avanti a oltranza a prestare soldi a qualsiasi azienda decotta. Esatto, a qualsiasi azienda decotta. Tanto, questo è geniale. Cosa mai potrà andare male? Vuoi che non ci restituiscano questo prestito? No, ma esatto. Dopodiché, poiché è evidente anche ai Sassi che non c'è nessuno in questo momento che vuole comprarsi all'Italia a due teste la Aviation e la Handling, ma al più vogliono la Aviation, alla fine qualcuno dovrà creare l'ennesima bad company dove mettere dentro questi soldi e queste perdite in capo ai contribuenti italiani. Diciamola tutta. Nel frattempo, visto che a Ferragosto il governo tedesco ha chiesto e ottenuto 150 milioni di autorizzazione dalla Commissione europea per Air Berlin, la situazione di Air Berlin è stata chiusa. Ora, io so che i più patrioti tra voi mi diranno: eh sì, però Air Berlin era troppo facile perché aveva in casa Lufthansa che se la poteva comprare. Noi siamo diversi, abbiamo tutte queste peculiarità, specificità, eccetera. Io non so che dirvi, cioè io credo che Alitalia continuerà a restare una passività sul groppo o su altre parti anatomiche dei contribuenti italiani, e si andrà avanti così a oltranza. Sono d'accordo, anche Ilva si scarrozza tutto dopo le elezioni, e tutto dopo. Io devo parlare del tafazzismo del Bancomat in Catalogna, perché è troppo bella questa storia qua. L'assemblea degli secessionisti, secondo Bloomberg, ha chiesto ai cittadini indipendentisti di segnalare la loro passione. No, non la prelevando, prelevando stai attento, è il nome di una delle due più piccole organizzazioni indipendentiste. Sono due in totale, hanno 6.000 iscritti, poca roba. Per fortuna sono pochi matti. Per fortuna sono pochi matti, ma i segnali sono che Sabadell e Caixa hanno perso 9 miliardi di liquidità. Non in per questi... questo, dai, dai. Non lo sappiamo. Fai il corretto, hanno perso 9 miliardi di capitalizzazione per di liquidità, no, Oscar. No. È così. Ne ho visto la notte ufficiale ieri. Di capitalizzazione. Mi dispiace doverlo dire. I 9 miliardi sono la capitalizzazione. Ci torniamo. Ci sono tornato perché ho scritto su questo ieri. Ieri sera le banche dicevano, note ufficiali delle 4 maggiori banche sulla piazza di Barcellona: non abbiamo riscontrato niente, perché sono poche migliaia. È una cosa che è rimbalzata sui giornali come se fosse un appello di massa. Però di fatto le banche ieri sera dicevano: non abbiamo quasi perso niente. Cioè... Vabbè, allora fammi però stare sul punto. Segnalare il tafazzismo di chi dice: questo sì, facciamoci del male, facciamo la corsa agli sportelli, creiamo una situazione come quella della Grecia, cioè magari spingiamo alla alla restrizione della circolazione dei capitali, dai, facciamoci del male. Oltre ad aver fatto fuggire centinaia di imprese, di cui molta parte delle quotate sull'Ibex, vedo che il naif, diciamo la cultura naif degli indipendisti catalani prosegue nel suo tentativo di affossare una delle più belle e ricche regioni d'Europa. Questo, andiamo avanti. Verissimo. E oggi c'è il Consiglio dei Ministri atteso in Spagna, grandissima incertezza anche a Madrid da tutte le fonti giornalistiche, perché una volta deciso che oggi applicano il 155 della Costituzione, la questione è diventata, bene, che cosa vuol dire in concreto? Cioè, noi negli atti che dobbiamo scrivere e mandare in Senato, approvati dal Senato, non ci dovrebbe essere problema di maggioranza del Senato, cosa sospendiamo davvero? E su questo si è scoperto che i costituzionalisti spagnoli sono ovviamente divisissimi, perché sospendiamo l'assemblea? La maggior parte dei giuristi dicono no, questo non è possibile, sospendere l'assemblea eletta dai catalani. Sospendiamo il capo della Generalitat, ma lui non l'ha proclamata la secessione. Quindi, siccome si tratta per esempio di sospendere l'attuale gestione anche di una televisione in Catalogna, quella regionale, ci sono molte questioni, vedremo che cosa ne esce fuori. Mi tocca dire anche, domani si vota in Lombardia e Veneto, fatemi dire solo che anche in questo caso l'informazione, secondo me, nella media si è comportata bene. Dario De Vico, io sono molto d'accordo con Dario De Vico, è stato un dibattito molto meno scassato che in passato, per così dire, cioè non ci sono stati toni oltranzisti. Quello che mi colpisce sono alcune testate di informazione del centro-sud. Oggi per esempio scopro sul Messaggero che tutti i conti del residuo fiscale o la maggior parte di loro sarebbero sbagliate, e c'è una paginata intera che dice: sorpresa, il Lazio riceve meno di quello che dà. Cari colleghi, dovreste dire ai vostri lettori che il Lazio e Roma sono al vertice della graduatoria del prelievo italiano, perché la regione resta in rientro coatto sanitario e perché le aliquote sono massime nel comune di Roma per via del contributo annuale per il debito che hanno avuto in regalo in gestione separata per 18 miliardi. Se vogliamo fare il nostro mestiere, cari colleghi, dobbiamo farlo bene, perché altrimenti... Campanile. Ho capito il campanile, ho capito le copie, però altrimenti io ci scrivo pure, quindi adesso si arrabbieranno mille volte, però insomma c'è un limite, direi. Però comunque si vota e vedremo, sapete che il voto conta solo per, più che altro per il tasso di partecipazione al voto, lo prevedo più alto in Veneto, significativamente più basso in Lombardia, vedremo. Ma è molto importante il voto, adesso mi direte, ma no, rompere le scatole, ma si vota a Praga questo fine settimana, e quello è un altro voto in Italia trascurato, ma che potrebbe, tutti i segnali dicono, essere un altro colpo nella direzione Alternative for Deutschland, nella direzione del voto austriaco, perché c'è questa figura sorprendente, cioè uno degli uomini politici più simili davvero a Berlusconi, per così dire, il miliardario Babis, che è alla testa di questo partito che si chiama ANO, tra l'altro, che dovrebbe essere, con il favore dell'attuale capo dello Stato ceco, colui intorno al quale si organizza il nuovo governo. Anche lui è antieuropeista, viva Putin, non gli immigrati. Vedremo, ma è un voto che ha anch'esso la sua importanza. Torniamo tra subito, tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupate. E allora, grandi sviluppi in corso sulla vicenda bancaria dopo la risoluzione. Abbiamo già fatto il punto in settimana, all'inizio della settimana, con Carlo Alberto e Mario, ma oggi raccontano i giornali, e passo la palla a Mario, la stampa soprattutto racconta di questa soluzione di compromesso a cui starebbe lavorando Gentiloni, che deve non un po' rompere proprio troppo con Renzi, malgrado le posizioni siano totalmente contrapposte, e quindi ci sarebbe allo studio una specie di lettera in cui si formalizza visco sì, ma con una diversa versione, una fase 2 della pancreta. A me scappa da ridere. Mario, come la pensi? Ma io, cioè, a me viene da dire che la commedia dell'arte è nata in Italia, continua a trovare una seconda, una terza e un'ennesima giovinezza in Italia, adesso siamo nel pieno di questa zuffa sdegnata tra le parti rispetto ad un istituto che ha praticamente visto le proprie prerogative diminuire in maniera drammatica e che praticamente le sta perdendo tutte, soprattutto in termini di vigilanza. Quindi la Banca d'Italia diventerà un bel centro studi. Speriamo sempre più, come dire, originale nella produzione, che possa dare un contributo al dibattito scientifico. Per il resto, l'ho detto più volte, non voglio ripetermi, ma cioè, leggere come si è letto questa settimana di parallelismi tra Ignazio Visco e Paolo Baffi mi pare una sciocchezza assoluta. Mi pare che l'azione di Renzi sia il tentativo di staccare da sé e dal PD lo stigma del disastro bancario che ha coinciso largamente con questa legislatura, e questo mi pare oggettivo. Poi le colpe le scoprirà la storia. Mi pare una reazione abbastanza panicata da blitz. Lui poteva sicuramente mettersi attorno a un tavolo con altre forze istituzionali, sondando il Quirinale già un annetto e mezzo addietro. Non l'ha fatto, e chiaramente siamo sempre così a questi tentativi di rincorrere per fare in modo che il paese si polarizzi tra Guelfi e Ghibellini, giù le mani dal compagno Visco oppure Visco fuori dalle scatole, eccetera. Per me non cambia assolutamente niente, cioè che Visco faccia un passo di lato con tutti gli onori per rassicurare il Quirinale, gli venga data, come dire, una posizione di prestigio, e dopodiché si tiri su letteralmente o Salvatore Rossi o Fabio Panetta, non cambia niente, perché un minuto dopo questo evento, se dovesse andare così, i populisti, diciamo le forze antisistema, comincerebbero a strepitare dicendo che comunque in Banca d'Italia non è cambiato nulla. Tanto, voglio dire, se noi scendiamo per strada, andiamo nei bar, sentiamo la gente sui mezzi pubblici che parla di queste cose, punto primo, probabilmente non gliene fotte un accidente. Punto secondo, capiscono un accidente doppio. E quindi siamo sempre alla rappresentazione simbolica, mentre il mondo procede per i cavoli suoi da tutt'altra direzione. Quindi poi alla fine questa settimana ho visto, perché ha scritto persino Eugenio Scalfari, io ho letto solamente il titolo, no? A Renzi serve un neurologo, adesso non lo so, forse a Scalfari, chi passa i pezzi a Scalfari e chi fa i titoli dei pezzi di Scalfari, cerchi di stare più attento, perché poverino, no, non è poverino lui, poverino chi gli passa i pezzi e chi gli fa i titoli, che è un concetto diverso. Lui si limita ad esistere in quanto tale. Ma il problema, no, ma io dicevo poverino chi glieli passa, mettiti nei suoi panni. Ah no, perché non si può correggere un'enciclica, esatto. hai ragione, dimenticavo quel dettaglio. Sì, sì, però alla fine, voglio dire, viene fuori l'ennesimo teatrino. Però Mario, possiamo ricordare agli ascoltatori qual è la funzione di Banca d'Italia dopo il 2005, dopo l'ultima legge, giusto per posso leggere articolo 19 della legge 262. La Banca Centrale, la Banca d'Italia, è parte integrante del sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca Centrale Europea. Quindi, occhio, l'indipendenza è richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti, nonché per l'assolvimento dei suoi compiti. Cioè, l'indipendenza non è una emanazione dall'Italia alla Banca d'Italia, ma è una condizione per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Banca Centrale Europea. Molto importante, che ricordiamo quali sono: la sorveglianza sulle banche medio-piccole, che ormai sono rimaste, sì e no, insomma, stiamo parlando del 20-30% degli attivi bancari, non molto di più, e l'autorità nazionale di risoluzione, cioè quella incaricata di mettere in bail-in le banche, con questo con un filo di conflitto di interessi, perché secondo me invece in Europa la separazione fra il single supervisory board e il meccanismo di risoluzione è molto rigorosa ed è molto chiara. Questo è quello che fa la Banca d'Italia. Quindi l'autonomia e indipendenza dell'istituto è una funzione che ereditiamo dall'Europa, non che è una funzione che c'è nello statuto europeo, perché c'era arrivata la cultura delle banche centrali nazionali europee. C'è arrivata in Italia. Comunque l'autonomia si sanziona col divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, che è del 1981, quando Carli diceva la sedizione non c'era la separazione. Poi ci siamo arrivati persino noi alla finta ma autonomia. Quello però non attiene alla politica monetaria, scusami, che non è più tema nazionale. L'unica autonomia di cui stiamo parlando per Banca d'Italia è un'autonomia però, nella supervisione e gestione delle Carlo crisi. Alberto, prego, senti, io siccome non mi devo dimenticare, prima che mi caccino, che siamo ai microfoni del gruppo Sole 24 Ore. I 46 economisti che hanno firmato l'appello del Sole 24 Ore a questa tua visione, direbbero che è una visione, molto probabilmente, non li voglio interpretare, però ne conosco la stragrande maggioranza, direbbero che è una visione settaria. Perché? Volta cioè a trasmettere ai nostri ascoltatori una funzione, una lettura sminuente della Banca d'Italia. Primo, molti di loro ti direbbero: al momento aspetta un po', niente per sempre, l'Italia ha lottato contro la BRRD e sta vincendo su molti aspetti della regolazione europea, perché noi intendiamo preservare comunque una funzione in grado di esercitare sempre un confronto molto energico contro gli errori che vengono dall'Europa. I famosi pugni da battere sul tavolo, è questo che stai dicendo. Lo sai, noi l'abbiamo molto criticata sabato per sabato, ma non dimentichiamoci che siamo minoranza in questo paese. La totale maggioranza dell'Accademia Italiana non la pensa come te, Carlo Alberto. Uno, quindi direbbero: no, ci vuole una Banca d'Italia con una guida che preservi l'italianità e che eviti sugli NPL la roba dell'accantonamento fino al 100% del valore del sicuro in 7 anni, e ce la faremo, compagni, dai campi e dalle officine ce la faremo. Questo per dire uno. Due, poi c'è un numero più ristretto che dice addirittura: no ragazzi, ma se poi l'euro va in pezzi eccetera, noi abbiamo bisogno della Banca d'Italia che in un fine settimana torni a esercitare anche le funzioni di politica monetaria. Ah, giusto. Ragazzi, ma non potete dimenticarvelo, Berlusconi ieri, perdonatemi, è andato a parlare della lira ai giovani di Confindustria. Sì, dai, diciamo queste cose. L'hanno applaudito, diciamo. A me scapperebbe da ridere, però l'hanno applaudito. Facciamo la fine della Catalogna, è questo che stai dicendo. No, ma per io favore, ti sto dicendo, noi ci dobbiamo, io sono settario. Noi ci dobbiamo. Questi signori forse dovrebbero farsi un minimo di regola al cervello. Noi abbiamo le nostre idee e abbiamo per anni criticato quello che avveniva nelle vicende bancarie, e ohimè, spero che gli ascoltatori ci diano atto che non erano le nostre pregiudizi. Ma detto questo, non possiamo far finta di non vedere che l'Italia delle classi dirigenti non la pensa come hai detto tu, come pensa Mario, come penso io. Io infatti ho esordito dicendo: è una guerra impinnacchiata del 600 che rappresenta una funzione di Banca Italia che non c'è più nei fatti. È rimasto solo quello in questo paese, eh? Cioè le sceneggiate, la commedia dell'arte, il teatrino a uso interno, perché sull'esterno i rapporti zero di forza ridono, e la realtà stanno altrove. Non c'è dubbio. E quindi invece che leggere gli appelli degli economisti, perché non leggete le norme italiane ed europee? Queste sono così chiare. Perché tu sei un economista. Io ho letto le norme, Oscar. La verità è che ci illudiamo di avere una banca di... come ci illudiamo io e te di avere i capelli, Berlusconi di tornare alla lira, di fare il conquistatore di tutte le femmine italiane. Questo è un popolo preso alle illusioni. Cioè, la Banca d'Italia è una cosa importantissima, e non so, io e te, Oscar, siamo cresciuti con la religione, esatto, di Via Nazionale. E questo ecco, perfetto. Ma erano altri per tempi. Per noi era veramente il totem a cui aggrapparci in una tempesta, in una procella di populismo. E ben per questo Mario ha ragione, allora, che quando senti avvicinamenti a baffi ti vengono... Ma io no, cioè voglio dire, quando dovete parlare di baffi e sarcinelli, sciacquatevi la bocca. Esatto, sì, veramente, ecco. Perché non, c'è un limite oltre il quale poi si attenta alla dignità di persone straordinarie. Detto questo, serve in Banca d'Italia comunque sappia fare supervisione fatta bene, benissimo, con grande attenzione, perché bisogna ripristinare la fedeltà dei risparmiatori alla banca sana. Questo è importante, questo è il vero, la vera priorità. Allora, io non dimentico anche le responsabilità politiche di Renzi e dei suoi, mi dispiace, l'intenzione è quella di farla dimenticare e di rovesciare la carambola politica in campagna elettorale, tant'è vero che i renziani ti assaltano. Io ho ricevuto, come al solito, una settimana di insulti privati dicendo: ah, sei un livido antirenziano, sei grillino. Ecco, il mondo diviso in questa specie di contrasto tra priapismi, che è diventata la politica italiana, questo esclusivamente cosa personale, mi dispiace, tanti carissimi amici anche oramai si sono affidati a questa storia, per cui c'è l'eterna lotta quotidiana a dire agli italiani che hanno sbagliato il 4 dicembre, che la colpa è solo quella, si dimenticano del loro premier che diceva: comprate MPS risanata, non l'ha mai detto evidentemente, dopodiché devo leggere anche la Boschi che dice: ah, è più facile attaccare noi che i poteri forti. Oh, era tuo padre che faceva l'amministratore bancario, non il mio. Scusa, te lo devo ricordare, cara signora ministro. Allora, è una commedia che dice di come è ridotta la politica italiana. Tra compagni di partito, per di più, tra compagni di partito, perché la rissa ha origine tutta all'interno del PD, tra per dare l'idea, Gentiloni non deve restare in piedi. Io ho scritto la legge elettorale d'accordo con Berlusconi perché abbiamo le mani libere, ma levatevi dalla testa che può restare lui, perché poi la sintesi, mi dispiace, non è la Banca d'Italia, per me è solo amaramente, drammaticamente, anzi commedialmente, come dice Mario, questa. No, una cosa. Ora, l'imprescindibile commissione di inchiesta sulle banche, che è quella che dovrà scoprire la verità con la maiuscola, si avvarrà come consulente, come cultore della materia, come esperto, eccetera, del dottor Ruggero, il PM della Procura di Trani, quello del processo alle società di rating, a Deutsche Bank, che ha venduto 7 miliardi di BTP, miliardi, facendo cadere, diciamo, il prestigio nazionale. E è stato convocato da Brunetta e Sibilia, furor di commissione. Quindi questa commissione, anche qui, nasce sotto i migliori auspici. Ma certo, cassa di risonanza elettorale. Ok. Della belva. Eccoci qui, tornati cari ascoltatori, per, speriamo, farvi arrivare l'idea di un falso clamoroso e conclamato che viene ripetuto oramai a ogni decreto economico, a ogni legge di bilancio, a ogni correzione. Da sempre dicono: abbiamo mantenuto la nostra più grande promessa. Non c'è una tassa in più, le tasse diminuiscono. E sembra veramente i vecchi piazzisti di Pentola. Naturalmente i testi non ce li danno, naturalmente i testi dicono l'esatto opposto. E quando dicono l'esatto opposto, significa non solo che il più delle misure, l'avete capito anche questa volta, il più di queste misure sono in deficit coperte o coperte tramite flessibilità in più, cioè la diminuzione da 0,8 a 0,3 della correzione strutturale, sì, che si deve a Padoan, che Renzi ha mollato, ma che gli ha portato 2,2 punti di maggior flessibilità, cioè di deficit consentito dall'Europa in 3 anni, non poca roba. E poi ci sono solo, come terza copertura, che cosa? L'aumento delle entrate. E l'aumento delle entrate, anche in questo caso, tra il decreto fiscale di cui abbiamo il testo in Gazzetta Ufficiale da 2 giorni e la legge di bilancio di cui abbiamo solo le bozze, diverse, ognuno ha le sue, perché ovviamente il testo non c'è ancora, beh, prevede una bella raffica di misure sulle quali, a differenza del silenzio generale che cade da parte dell'informazione generalista, noi vogliamo riflettere insieme a 2 ospiti che abbiamo con noi, che ringraziamo e vi presento. Il professor Andrea Giovanardi, che insegna e è associato al diritto tributario all'Università di Trento ed è avvocato e commercialista anche lui. Buongiorno Giovanardi. Buongiorno Giannino, grazie dell'invito. E Alessio Argiolas, che è uno dei dottori tributaristi, dai quali c'è un gruppo di amici tributaristi che mi alimentano tutti i giorni, mi fanno incazzare, mi fanno storcere tutti i giorni. Grazie di essere con noi, Argiolas. Grazie a voi. Allora, io butto lì, cari ascoltatori, per farvi capire che noi siamo in presenza di interventi retroattivi che cambiano l'IRI proposta alle imprese. Siamo in presenza di nuovi obblighi molto molto pesanti, come l'inizio della fatturazione elettronica B2B tra privati dal 2019, e che hanno, potrebbero diventare un inferno. L'inferno è questo: per chi non potesse adeguarsi alla fatturazione elettronica, per esempio tutti quelli che fanno import-export, caro amico Renato Cifarelli, che fai parte della nostra compagnia, vorrà dire che bisogna fare lo spesometro mensile a quel punto, perché l'obbligo di comunicazione dati IVI si moltiplica per 12. Cari ascoltatori, non devo ricordare a voi il mega flop di cui Giannino, insieme a pochi altri, passo per passo ha documentato, dopo che avevamo detto all'Agenzia delle Entrate non siete in grado di gestire quello che ci state propinando, poi puntualmente si sono trovati gambe all'aria. E ci sono le mini patrimonialine, c'era quella con il 2 per 1000 imposta di bollo le polizze, vita che pare sparita, però con un aumento del bollo a 10 euro per partecipare ai concorsi pubblici. Quindi diciamo, chi ne più ne ha più ne metta. Di mio, e l'ultima volta che lo ripeto, metto solo l'urlo finale prima di ascoltare i nostri ospiti, perché la conferma che c'è la guarentigia per gli 80 euro solo ai dipendenti dipendenti pubblici in caso, siccome ci sono più di 2 miliardi stanziati per l'aumento dei contratti pubblici, bene, dopo anni di stop, non dico di no, però in quel caso chi sta nella soglia 26-28 mila euro lordi verrà preservato e si tiene gli 80 euro, perché i lavoratori privati invece, se con aumenti contrattuali o aumenti di reddito, li perdono gli 80 euro? Perché solo i pubblici? Non vale la Costituzione e l'eguaglianza? Perché siamo sotto elezioni e quindi bisogna dire ai dipendenti pubblici vogliamo il vostro voto? E nessuno dice niente, non c'è un partito politico, ho mandato gli sms ai leader di tutte le forze politiche, nessuno mi ha risposto e sono tutti zitti. Conigli! Conigli, io urlerò tutte le mattine invece contro questa norma, però c'è di più e c'è di meglio. Allora, cominciamo dal professor Giovanardi. Allora, lei che dice di questa panoplia? C'è qualcosa da salvare di buono e che cosa invece l'ha colpita fino a questo momento, da quello che ci dicono i testi, di più di queste misure? Allora, da salvare, Giannino, io vedo sinceramente ben poco. Mi sembra che si siano seguiti modelli già altre volte utilizzati, quindi non vedo nulla di nuovo, vedo delle norme che si giustificano esclusivamente in logica di gettito e vado in rapida successione. Numero uno, la riedizione della rottamazione, che la rottamazione bis ce la troviamo nel decreto fiscale, peraltro che fa seguito anche a un intermezzo di definizioni di dipendenti. Questi sono veri e propri condoni che consentono alle persone che aderiscono, ai contribuenti che aderiscono, di non vedersi irrogare le sanzioni. Peraltro, tra rottamazione 1, rottamazione 2 e definizione di dipendenti, le norme diventano, come sempre, difficilmente gestibili e in qualche occasione ingovernabili. È da leggere come logica di gettito l'ampliamento dello split payment. Sappiamo benissimo che verrà esteso a tutte le società a partecipazione pubblica. Questo è uno strumento che io non leggo più di tanto come lotta all'evasione, perché non mi pare che le frodi IVA ci fossero soprattutto con chi aveva a che fare con la pubblica amministrazione. Ah, questo è un effetto bancomat di privati a favore dello Stato, liquidità, esatto. Come col gettito si giustifica anche con l'esigenza del gettito, si giustifica il rinvio dell'IRI, e peraltro il rinvio dell'IRI ha un profilo veramente discutibile, che è quello che della violazione eclatante dello Statuto dei diritti del contribuente. Ricordo che lo Statuto dei diritti del contribuente, efficacia della legge tributaria nel tempo, articolo 3, dice a chiare lettere che per i tributi periodici ogni modificazione può avere efficacia dal periodo d'imposta successivo. Avevamo l'IRI, ci possono essere dei contribuenti, imprenditori individuali o società di persone che hanno ovviamente progettato e messo in atto anche degli investimenti facendo conto sulla riduzione dell'imposta, che poteva essere anche dal 43% al 24%, e adesso si sentono dire abbiamo scherzato perché questo rinvio va dall'anno successivo. Faccio presente che nella bozza non c'è nemmeno scritto in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, come prevederebbe quella norma, che purtroppo quella legge che purtroppo è una legge ordinaria. Segnalo poi ci sono le mini patrimonialine, certo. Non mi sembra che forse non è neanche il caso di parlarne, perché si giustificano solo per quello. Segnalo invece una norma che non mi pare nessuno abbia così evidenziato, ed è quella sulla assoggettamento a tassazione della cessione degli oggetti da collezione, delle opere d'arte, regime fiscale delle opere d'arte. C'è un'ipotesi nella bozza che ho io, che è del 18 ottobre, che con norma di interpretazione autentica dice sostanzialmente la cessione delle opere d'arte si intende accomunabile all'esercizio non abituale di attività commerciali. Quindi bisogna che si sappia che se uno ha ereditato un quadro dal papà, dal nonno, da chi volete, e andrà a cederlo, quella plusvalenza che andrà a conseguire evidentemente sarà soggettata a tassazione, ma non dall'1/1/2018 in poi, ma a far data anche per il passato, perché questa è una norma di interpretazione autentica e quindi influisce anche sulle cause in corso. Faccio presente che l'amministrazione stava perdendo tutte queste cause. Perché dire che la cessione di un quadro è esercizio di attività commerciale, seppur non abituale, è perfino comico. Quindi cosa succede? Stanno perdendo le cause, adesso si torna indietro con norma di protezione autentica, anche qui violazione eclatante dello Statuto dei diritti del contribuente, articolo 1,1, il quale dice le norme di interpretazione autentica possono essere introdotte solo in casi eccezionali, non mi pare che questo sia il caso eccezionale, e con disposizioni che si qualificano espressamente come norme di interpretazione autentica. Segnalo infine che se io ricevo in eredità, parlo di qualcosa della mia terra, una villa di Andrea Palladio e la vendo, quella plusvalenza non è assoggettata a tassazione. Viceversa, se ricevo un quadro, allora quello assoggettato alla plusvalenza è assoggettato a tassazione. Perché sta passando l'idea, scusatemi, ma è così, che non può essere ammesso che una persona riceva una somma che può essere considerata come reddito senza che quel reddito venga assoggettato ad imposizione. Questa è l'idea di fondo. Non può ammettersi. Quindi segnalo anche questa disposizione. Allora, adesso noi torniamo tra pochissimo perché c'è dell'altro, cambia anche il regime di imposizione sul reddito da partecipazioni e gli effetti sono regressivi di questo, interessante, no? Che la sinistra faccia di queste cose, come vedremo, e poi c'è la web tax, il nostro amico Carlo Alberto ci spiegherà, lui non sapete, è assolutamente a favore della web tax, ci spiegherà tra poco, torniamo tra poco. Della belva. Eccoci qui tornati, caro Argiolas, che bello questa estensione progressiva della precompilata IVA che venne annunciata come un trionfale avanzamento delle semplificazioni e che invece è l'esatto opposto, che avviene grazie a questi nuovi obblighi che di ogni 3-4 mesi ormai si moltiplicano grazie alla così prodiga emanazione di novelle in materia di diritto tributario. Perché alla fine dalla fatturazione elettronica estesa agli split payment, questo è quello che succede, no Alessio? Esatto, la tragedia, che è quello che è sconfortante, a parte che 360 milioni di euro previsti hanno determinato, come accennavate poc'anzi, l'imponibilità di cessioni di opere d'arte e cose varie, che è abominevole, che modificano il testo unico a loro piacimento o come vogliono. Ma le cose devastanti è che spacciano come risultati personali qualcosa che è fatto sulla pelle del contribuente. Dico del contribuente perché in realtà io lo faccio di lavoro, ma sono tasse occulte, cioè non si può pretendere che il contribuente venga caricato di adempimenti che poi necessariamente devono essere delegati a soggetti terzi. Cioè, è proprio impensabile, non è un successo arrivare a una precompilata come il 730 come dichiarativi, se poi c'è il medico o chi per lui, il laboratorio analisi, che deve comunicare i dati che vanno a finire nel quadro P del suo unico o nell'equivalente del 730. Non è un successo se noi siamo obbligati a trasmettere per conto dei clienti delle dichiarazioni IVA periodiche, perché quello sono, che mi auguro che alla fine tutti abbiano compreso che in realtà la motivazione è stata fatta non certo come lotta all'evasione, ma per un'anticipazione di cassa. Esatto, anticipazione di cassa. Ma certo. Perché cioè è chiaro a noi, quelli come me sono soggetti, e gli è chiaro. Credo agli italiani non troppo, purtroppo, però è così. Cioè, perché hanno fatto da un lato l'allungamento dei termini per il ravvedimento operoso, allungandoli in 3-4 anni. E dall'altro lato in realtà questo diventa ineseguibile, è una chimera, perché se la compliance tanto sbandierata, per usare la terminologia dell'era Orlandi, la compliance ti dicono dopo un mese e ti danno il buffetto sulla guancia e però infatti il monello non è versato l'IVA. Dopo 2 mesi ti arriva un avviso bonario, esatto, col 10% di sanzioni e interessi. quel provvedimento è uno di quegli atti che ed è inoppugnabile purtroppo dal punto di vista anche dello statuto del contribuente, ti impediscono l'accesso al ravvedimento operoso. Quindi noi ci troviamo, e questo lo devono capire non solo i portatori sani di partita IVA, come li chiamo io, perché in Italia la partita IVA è un handicap, non solo i portatori sani di partita IVA, devono capire tutti, perché noi ci troviamo da un lato a prendere spese in prestito dal futuro con super ammortamenti, iperammortamenti, Batman ammortamenti, li chiamano come vogliono loro, dall'altro adesso ci stiamo spendendo i soldi che lo Stato in realtà da anni incassa con ritardo, ma non perché il cliente, il contribuente è un evasore, perché è un debitore che si mette, fa una ricognizione di debito sempre periodica con le proprie dichiarazioni fiscali, fa una ricognizione di debito, dice io ti devo questo, solo che poveraccio andava a pagarselo fino ai tempi volendo della dichiarazione IVA dell'anno successivo. Esatto. E con l'unificata hanno tolto la possibilità di inserirla nell'unificata, perché adesso l'IVA lo dobbiamo comunicare mesi prima, e dall'altro lato stanno anticipando spesa, quindi adesso stanno incassando soldi che avrebbero in realtà incassato un anno dopo, stanno spendendo i soldi che non hanno e stanno facendo con la clausola di salvaguardia una presa per i fondelli, perché ci siamo stufati di essere mutismo e rassegnazione tipo la leva obbligatoria, esatto, perché non siamo in naia, cioè dobbiamo starci zitti, e fanno dei rinvii continui pro domo mea. Comunque, perché... cari amici, nel senso che siete accademici e professionisti della, per così dire, intermediazione e interpretazione tributaria, io mi auguro che almeno sull'estensione degli obblighi fatturazione elettronica tra privati, alcune delle macro evidenti storture dell'impianto che viene previsto in legge di bilancio per il 2019 vengano corretti, perché ripeto, la tragedia per qualunque operatore italiano che abbia in piedi rapporti di import-export, ma anche con le imprese comunitarie, loro non si doteranno mai di una PEC, di un codice identificativo per il fisco italiano, perché non hanno obblighi doganali particolari, quelle e in quel caso l'italiano si trova a fare la comunicazione obbligatoria mensile, cioè sono follie orwelliane. Grazie ad Argiolas, grazie a Giovanardi, noi ci sentiamo dopo il Giornale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua tornati in studio, cari compari, 11.7 primi, 22 secondi. Mario. E Carlo Alberto. Carlo Alberto, però 30 secondi a difesa della WebTech se devi fare, scusa. La devo fare. La devo fare. No, sembra che Gentiloni ieri abbia detto con la sua consueta diplomazia, sostanzialmente, non è detto che aspettiamo l'Europa, magari la mettiamo già direttamente in legge finanziaria quest'anno. Quando proprio pochi giorni fa il commissario europeo digitale, Maria Gabriel, ha detto, mi raccomando, è importantissimo che non ci sia un approccio frammentato dei singoli membri a queste cose che vanno decise a livello comunitario, perché se no sono violazione dei trattati reciproci, finiscono per fare doppia tassazione, oppure per violare molto semplicemente, caro Oscar, la libertà fondamentale d'Europa che garantisce la libertà di stabilimento. Questi vogliono forzare le aziende del web a insediarsi in Italia, quindi sostanzialmente violando quel principio. E poi vogliono tassare non gli utili, bensì i ricavi, quindi a prescindere. E di fatto cosa faranno? Faranno spostare i flussi all'estero e impoveriranno il mercato pubblicitario italiano, che è già asfittico. Ieri sera il lumine modesto meccanico delle parole senza titoli che parla, ieri ti ha bonariamente ripreso su Twitter, perché dicevi, ma insomma Gentiloni, ma com'è possibile per una persona come te che si è occupato sia della comunicazione, è stato ministro, eccetera eccetera, da una parte la web tax e dall'altra il sussidio su carta. Brava, io ti ho detto che sono invece nella logica politica italiana due cose che vanno insieme. Diciamo, io tornerò a stupirmi che le persone intelligenti e preparate, come io penso sia il nostro Presidente del Consiglio, anzi ne sono certo avendolo conosciuto, non possano, non debbano fare queste cose. Ah, fammi dire a questo punto anche di questo credito d'imposta riconosciuto agli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Ricordo che il traffico online sugli edizioni digitali dei quotidiani italiani ha perso il 20% negli ultimi 2 anni. Perso! Quindi non mi venite a dire che la pubblicità sui quotidiani italiani è una pubblicità online, perché non è vero, è assolutamente marginale. Questo è l'ennesimo bonus agli amici che parlano bene di te. Tra l'altro, scusa la radio, ricordo, fatemi fare un commento pro domo nostra, radio, no? TV escluse. Radio, sì, TV, sì, escluse. Quindi noi che cerchiamo di fare un minimo di servizio di giornalismo, niente, il bonus a noi niente. Che devo dire, Oscar? Devo ringraziare il governo per questo grande aiuto al pluralismo pro domo sua. Quindi tu vorresti l'estensione del credito d'imposta, non la ridefinizione organica, capito. Non guidare il mercato dove il mercato sta andando. Però almeno non la discriminazione, che non si discrimini tra amici e nemici. Sappiamo quanto costa questa caramella del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari sui 62 media? 62 milioni e mezzo credito d'imposta 2017, 20 milioni sono in realtà dedicati all'innovazione, pluralismo, quindi qualcosina per la radio c'è anche, però non è sull'inserzione pubblicitaria. Ma va bene. No, ma faccio notare poi naturalmente al grand uff Loopman dot prof Internaz. Internaz mi piace. Internaz, che roba, che qua facciamo il provincialismo fiscale, dai. Che roba. Nel gruppo naturalmente c'è un quotidianuccio che ha solo 24 ore. Me l'ho dimenticato. Per te esiste solo la radio, sto. Non capisco che devono discriminare la radio, parliamoci, che fa un servizio fantastico. Parliamoci chiaro. Questa manovra è sotto elezioni, è chiaro che i partiti e la politica, che qualunque sia il colore dei governi, la fanno perché sotto elezioni la politica si ingrazia di elettori, lo sai meglio di me. Gli elettori italiani sono selvaggiamente favorevoli, sono tra i primi motori da sempre nel chiedere alla politica la tassazione sul fatturato degli over the top americani, e lo sai che è così perché te ne sei sempre occupato. Certo. La loro tesi è che hanno rubato indegnamente senza pagare tasse pubblico, raccolgono pubblicità in concorrenza con le loro concessionarie. Questa è la loro vero tesi. Gli ultimi dati Nielsen dicono per esempio che la pubblicità digitale in Italia ha perso l'1%, mentre quella sui, diciamo, over the top è stimata in crescita al 6-7%, tanto per farti capire. Comunque, quindi, i giornali sono i nuovi florovivaisti col bonus verde, diciamo. Allora, c'è un bonus per tutti. Allora, intanto grazie alle telefonate entriamo nel secondo blocco, che partirà tra poco, dopo le telefonate con alcuni dei nostri ascoltatori, sull'alternanza scuola-lavoro, perché questo è un tema nel quale secondo me le classi dirigenti italiane hanno perso un'occasione, perché la protesta degli studenti pone un problema, è vero, non è la protesta della stragrande maggioranza, però non erano neanche pochi, e pongono un problema serio. E allora vediamo un po' come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Linda, che ci chiama dalla provincia di Milano. Linda, prego, ci dica. Sì, buongiorno. Io volevo appunto riportare un'esperienza positiva che ha vissuto mio figlio l'anno scorso, tra l'altro al primo anno di questa, insomma, della riforma che riguardava l'alternanza scuola-lavoro. Lui è stato 3 settimane a Dublino, dove ha lavorato in un negozio di abbigliamento vintage, e ovviamente ha fatto anche attività umili, tra virgolette, ha pulito in magazzino, eccetera. Però per lui è stata un'ottima esperienza, è stato molto contento e non si è considerato sfruttato, insomma l'ha vissuto proprio come un'esperienza costruttiva. Che istituto frequenta, Sofia? Borsellino di Arese, liceo scientifico. Ah, è un liceo scientifico, Sì, lui ha fatto liceo linguistico e la scuola ha organizzato bene, diciamo, questa attività, perché ha permesso anche di fare attività in Italia per chi, appunto, ma anche all'estero, quindi in Francia, in Inghilterra, in questo caso è stato a Dublino, in Irlanda, e avrebbe rifatto anche quest'anno, solo che per motivi proprio anche di tempo, quest'anno io in quinta, per cui gli hanno detto di no. Però insomma, comunque l'esperienza è stata molto bella. Grazie Linda, sentiamo molto Stefano. Così. Stefano che ci chiama da Brescia. Stefano. Buongiorno. Eccoci, dica. Allora, io sulla scuola lavoro ho un pensiero abbastanza critico, perché Prima di tutto l'alternanza scuola-lavoro non è una cosa di due anni, ma esistono decreti già dal 2003 e sì, dal 2005. La buona scuola, la 107, l'ha potenziata, semplicemente ha potenziato il monte ore con un potenziamento più forte naturalmente per gli studi tecnici rispetto a quello del liceo, però insomma 200 ore, 400 ore, questo è la potenziata, preesisteva ovviamente, ha ragione lei, dica. Esatto, il problema secondo me non è che è una cattiva idea, è che è una buona idea che arriva però in un momento che arriva in ritardo, come la penso io, anche in virtù del fatto che il numero di laureati in Italia è in calo e quant'altro. Quello che dovrebbero fare le scuole, specialmente i licei, è quello di spingere verso l'università. E all'università ci sono gli stage curricolari. Quindi la scuola dovrebbe essere propedeutica all'entrata nel mondo universitario, quindi l'idea è quella di potenziamenti di materie come la matematica, il coding, la fisica, la logica, non quella di mandare a fare lavoretti che portano via ore, tante ore allo studio. No, ma Stefano, hai espresso chiaramente qual è la sua idea. Io non so se la penso così. Noi è vero che abbiamo un drammatico problema di carenza di laureati sul totale della popolazione, e questo non c'è dubbio, questo è un problema da sanare, ma ce l'abbiamo per la stessa ragione per cui anche il ciclo della secondaria non è professionalizzante, perché anche le lauree non sono professionalizzanti. Questo è il punto vero. Non sono molto d'accordo, se ho capito bene, però, e pur sapendo che lei secondo me rappresenta la maggioranza delle opinioni, sul fatto che la secondaria abbia come fine prioritario quello dell'accompagnare verso l'università. Non è detto, cioè il problema, l'istruzione duale alla tedesca, sia nel ciclo secondario, poi c'è addirittura un post secondario professionalizzante, come in teoria dovrebbe essere qui l'ITS, di cui lamentiamo che c'hanno solo 7600 iscritti, ma l'ITS è un'accademia di elevata professionalizzazione dopo i tecnici, però è direttamente costruita per avere uno sbocco immediato nelle specializzazioni, nel mix delle specializzazioni, nel mondo del lavoro, e per me non è dimidiante rispetto al fatto di non avere una laurea in tasca. E contemporaneamente la soluzione duale prevede che il più della impostazione dell'offerta universitaria, il più, ripeto, sia fatta con curricula che sono ancorati all'evoluzione delle professioni, cosa che in Italia, se mi sente il professor Biagio De Giovanni, mi impicca un lampione, perché dice che ovviamente è violazione del fondamento di che cos'è l'accademia universitaria. Però in quei paesi funziona meglio l'occupabilità e il fatto che i tassi, il capitale umano è più e meglio formato che da noi. Noi abbiamo occupabilità bassissima e un capitale umano che invece drasticamente rivela le difficoltà che ha detto lei. Luca da Milano, ancora Luca. Sì, buongiorno. Allora, io intanto sono a favore, non solo perché l'ho fatto da 13 anni, dell'alternanza scuola-lavoro, ma è il modo in cui viene utilizzato. Io sono stato, se vi posso raccontare un aneddoto, sono stato testimone di una cosa assurda. Sono entrato in un negozio, mi occupo di sviluppo reti per commerciali, sono entrato in un negozio che stavano smantellando, a smantellare c'era un ragazzo che stava facendo l'alternanza scuola-lavoro. Ora, non è un caso purtroppo isolato, credo che ci vogliano i controlli su questa cosa, perché uno, quando viene messo sul posto di lavoro, si presume che venga messo lì perché deve imparare il lavoro per il quale sta studiando, quindi ci vogliono sicuramente dei controlli. Però sul fatto che uno debba, debba lavorare su quello su cui sta studiando è assolutamente positivo. Grazie anche a Luca. Noi adesso torniamo tra un minuto con i nostri ospiti, perché avremo diverse voci, avremo studenti a favore e contro, avremo un manager per un gruppo che ci crede molto e avremo anche uno che al MIUR ci ha creduto molto. Tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati, appunto, alternanza scuola-lavoro, proteste degli studenti e la nostra impressione. Le classi dirigenti italiane non hanno capito che bisognava dare una risposta seria Ecco i motivi di perplessità, che sono motivi di perplessità su come è costruita l'offerta scolastica italiana, su come si realizza in molti casi. Non bisogna generalizzare, perché c'è chi la fa meglio, chi la fa peggio, questo potenziamento della esperienza di alternanza scuola-lavoro, però ci siamo detti torniamoci sopra innanzitutto sentendo due voci. Abbiamo scelto mica potendo divinare, però ci siamo semplicemente detti: vediamo almeno chi ha organizzato la protesta e diamogli voce, sentiamo un altro voce di studente dopo e poi ragioniamoci sopra. Quindi intanto grazie per essere qui con noi al coordinatore nazionale della rete degli studenti medi, Gianmarco Manfredi. Buona mattinata. Buongiorno. Allora, buongiorno, grazie a voi. Ci dice i motivi di questa protesta che hanno portato su un tema concreto di come è costruita la scuola italiana e perché voi dite non funziona sta cosa. Ma la protesta è stata costruita su motivazioni forti di disagio che gli studenti vivono a partire dal diritto allo studio e all'edilizia scolastica, ma che poi si è concentrata anche in termini mediatici sul tema più caldo in questo momento nel dibattito, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro. Noi siamo scesi in piazza per dire che noi crediamo nell'alternanza scuola-lavoro come forma didattica alternativa, ma non come quello che oggi è nella maggior parte delle scuole italiane. Noi abbiamo fatto anche un'inchiesta che abbiamo presentato qualche settimana fa alla Camera dei Deputati, dove abbiamo evidenziato quelle che sono le difficoltà e gli errori che ancora vengono messi in atto affinché questa alternanza scuola-lavoro non è quello che dovrebbe essere, perché mancano regole e criteri chiari che permettano di mettere tutte le esperienze di alternanza scuola-lavoro all'interno di un binario giusto. Abbiamo ad oggi un'alternanza scuola-lavoro che non va a intersecarsi con quelli che sono i programmi scolastici. Abbiamo scuole che fanno fare alternanza scuola-lavoro solo al di fuori dell'orario scolastico, durante le vacanze, quando non sono seguiti. Abbiamo la maggior parte dei tutor che seguono gli studenti, che sono persone scelte in maniera casuale, senza conoscenze e competenze, e la maggior parte delle aziende, perché noi siamo in un paese in cui il tessuto imprenditoriale non ha mai investito in formazione all'interno dei luoghi di lavoro, non è in grado ad oggi di offrire dei progetti utili e formativi per gli studenti. E noi chiediamo diritti per gli studenti in alternanza, perché pensiamo che bisogna tutelare quei soggetti che sono al di fuori del loro ambito naturale, e dall'altra chiediamo criteri chiari per selezionare le persone che devono seguire gli studenti in questo percorso particolare, e criteri chiari per le aziende e per gli enti che attivano questi progetti, perché non possono essere casuali sempre. Quindi è una serie di osservazioni fondate innanzitutto sulla mancanza di un quadro coerente ed efficace di direttive organizzative, sia su come farlo, sia per le finalità, sia per le forme di tutoraggio, sia nell'interazione con l'azienda. Ho capito? Cioè è chiaro che diventa una critica radicale sommando tutti questi aspetti, ma non è una obiezione all'idea dell'utilità, che è un'utilità, no? Ho capito bene? Noi appunto, ma da prima della buona scuola, credevamo fondamentale l'alternanza scuola-lavoro anche e soprattutto nei licei, perché crediamo che sia uno strumento col quale la scuola si apre all'esterno e anzi prova a incidere sul mondo intorno a sé. Noi pensiamo che l'alternanza scuola-lavoro era fondamentale nelle scuole per riuscire a convincere un mondo spesso conservatore che la conoscenza, le competenze, l'apprendimento non si fa soltanto all'interno delle mura scolastiche attraverso una lezione frontale, dall'altro per andare a riscoprire i luoghi di lavoro come luoghi di conoscenza e formazione, e per anzi dare un imprinting in questo caso al mondo del lavoro italiano, che su questo è ancora fortemente arretrato. No, ma poi noi magari siamo vecchi, voglio dire, ma abbiamo anche l'impressione che i ragazzi, gli adolescenti italiani non abbiano uno strumento, per così dire, di orientamento per capire che cos'è al di là dell'indirizzo che hanno scelto. Questo Carlo è il Alberto. Problema, questo è il problema, che il comma 33 della 107 dice chiaramente che l'alternanza della scuola lavoro ha l'obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento agli studenti, quindi non presuppone che ci sia una coerenza ex ante tra esperienza lavorativa e specialmente diciamo corso di studi liceari, presuppone soltanto che in questa esperienza si maturi una capacità di orientamento. Questo è l'elemento fondamentale, quindi è un modello aperto. Poi siamo completamente d'accordo che vada meglio organizzato, reso trasparente e controllato, ma la sua finalità è quella di una scoperta, di un orientamento più ampio, non di un binario. E specialmente questo è vero per i licei, che ovviamente non hanno una finalità professionale precostituita. Ampliamo il quadro e con noi Francesco Lucisano. Francesco Lucisano, una persona che io stimo tantissimo, è stato, cioè è qui perché è stata una delle anime di coloro che poi nella 107 portarono al potenziamento dell'alternanza scuola lavoro, perché è stato capo della segreteria tecnica del MIUR. Adesso è tornato nel privato, fa manager in un'impresa petrolifera, però lui lo ha fatto con una visione, e per questo gli ho chiesto di rendersi disponibile oggi, e lo ringrazio, perché hai sentito, Francesco, la critica fondamentalmente è una critica su come è stata realizzata con poche direttive dall'alto questa, il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro. Ciò non toglie che secondo me, di fronte alla protesta, la risposta delle classi dirigenti non è venuta. Come mai secondo te, Francesco? Grazie di essere con noi. Grazie dell'invito. In effetti anch'io ho fatto un po' di alternanza scuola-lavoro, tornando adesso nel privato. Beh, la denuncia e le circostanze che racconta il rappresentante degli studenti di fatto ci fa fare già un passo avanti nel dibattito, perché lo studente sostanzialmente ci dice: noi vogliamo un'alternanza scuola-lavoro di qualità. E questo tipo di critica è esattamente quella che secondo me dovrebbe continuare ad esserci, e forse è mancata nel dibattito pubblico. Anzi, io credo ci sia stato proprio un problema di ecologia dell'informazione e di ecologia del dibattito pubblico, perché cioè nel fare la critica a un fenomeno che riguarda 1,5 milioni di persone all'anno, 1,5 milioni di persone, quindi tantissime, sì. Ecco, partendo da casi. Ed allora, è anche un'esperienza poi che ha un impatto nella vita di questi giovani e mezzo, non è come lezioni qualunque. Anche cioè, nelle aziende, anche esattamente. Parliamo di portare 1,5 milioni di giovani alle aziende che magari sono anni che non ne vedono neanche uno. Esattamente. Partendo sui dei casi, allora ci si ritrova il caso delle patatine fritte di Ramellini sul Corriere, la storia delle ragazze. Diciamo, i giornalisti in media hanno teso a generalizzare, certo, e a ridurre a macchietta, perché poi, scusate, allora io sono brutale su questo, macchietta, cari colleghi, macchietta, ecco, chiusa parentesi. Il primo passaggio dovrebbe essere riconoscere la caratteristica, non è un potenziamento, mi permetto di correggere semplicemente, è un passaggio da opzionale a ordinamentale. Visto. Quindi con la legge della buona scuola si è detto che, ma la faccio semplice, l'alternanza scuola-lavoro, quindi fare un pezzo di formazione fuori dalla classe, diventa come fare la lezione di italiano, sì. Diventa come fare la lezione di storia. Allora, se si capisce questo spostamento, potremmo criticare mille volte come funziona il caso di alternanza da una parte all'altra, come magari criticheremo l'insegnante di italiano che si addormenta in classe o l'insegnante di matematica che fa un sacco di assenze, ma è un dovere, credo, di tutti capire che il salto è un salto verso l'obbligo. Si poteva fare diversamente? Certamente si poteva aumentare leggermente il finanziamento, come diceva un ascoltatore prima, l'alternanza scuola-lavoro era già a disposizione delle scuole, e cosa sarebbe successo? Il solito, sarebbe successo che le scuole brave, con i presidi svegli e con, esatto, gli insegnanti disponibili, l'avrebbero fatta ancora meglio. Ci sono delle scuole che facevano un'alternanza scuola-lavoro, banalmente noi le abbiamo copiate per scrivere la norma, no? Straordinariamente, e sarebbe rimasto tutto il vasto tessuto di scuole che invece fanno fatica, che non avrebbe fatto nulla. O allora, siccome la scuola resta il più importante strumento di coesione di un paese, questo lo crediamo, si è fatta una scelta coraggiosa, che forse quindi dire che è per tutti, che lo sappiano fare o che no, bisogna spingere tutto il sistema, tutte le 40,000 plessi scolastici, verso l'offerta di una alternanza di qualità. Questa è una scelta coraggiosa, perché naturalmente si presta alla guerra degli esempi. Allora, no? Resta lì, perché io ho l'impressione che però, se nessuno dà queste risposte, conosco come funziona l'interazione nuova, che è quella vecchia, probabilmente per tanti anni, tra sindacato e ministro. Io temo che facciamo il passo indietro invece di fare il passo avanti. Questo è quello che vedo io, sì, nella pentola a sobbollire, come concessione un po' demagogica. Detto questo, quindi resta lì. Sentiamo l'esperienza, ne abbiamo scelta una tra tante, chiedendo alle imprese, quindi io dichiaro che in questo caso Flavio Romanelli, che è con noi, è uno studente del quinto anno dell'Istituto Tecnico Pacinotti Archimede di Roma. Grazie per dedicarci un po' di tempo in questo sabato mattina, e spero che non ti stiamo sottraendo alle lezioni, ma in questo caso mi scuso, ma grazie di esserti reso disponibile. Allora, l'esperienza che avete fatto voi, Flavio, dov'era e che impressioni ne hai tratto, positive e negative e critiche? Flavio, dici. Buongiorno, allora io innanzitutto c'è da dire che l'esperienza è stata fatta in sede BMW, appena fuori dal mio quartiere, quindi facilissima da raggiungere, e assolutamente positiva. Io la posso riportare come positiva perché abbiamo analizzato le varie parti delle strategie marketing, abbiamo imparato tutto quello che c'era da sapere su vari campi, molto ampi devo dire, dal marketing all'assistenza del cliente. Poi sono stato fortunato perché abbiamo avuto un tutor che del suo lavoro capiva molto, ci ha saputo guidare molto bene tra i vari aspetti dei lavori in sede, ecco. Te lo aspettavi? Sì, sinceramente sì, perché abbiamo fatto anche una parte di lavoro in classe divisa in vari incontri, e mentre ci parlava, mentre ci diceva quali erano le sue esperienze, quali erano i suoi compiti in sede, l'impressione che ci dava era proprio quello di una persona che sapeva ciò che faceva. Mi aspettavo esattamente quello che mi sono ritrovato davanti alla fine. E questa tua impressione molto positiva, come ci stai dando, è diffusa cioè evidentemente lo avete fatto in BMW, però prima o altri l'hanno fatta altrove, eccetera eccetera, tu diresti che l'impressione che avete ricavato da questa particolare esperienza si può estendere alla media delle esperienze alternanza scuola lavoro di cui sei a diretta conoscenza per i tuoi amici, oppure no? Allora, principalmente non credo sia estendibile a tutte, ecco, quante le esperienze, perché di base io non ho fatto soltanto questa, ne ho fatte anche altre e non tutte erano a questo livello, assolutamente. Diciamo che in media no, non è estendibile a tutte quante. Mi ritengo io fortunato ad aver trovato uno stage che mi ha concesso un'alta qualità, ecco. Perché l'alta qualità in questo caso era, mettiamola con una formula comprensibile a chi non è, era dovuta al fatto che c'era un'azienda che ha identificato un tutor che è stato capace di motivarvi sia nella parte affrontare la scuola, sì, sia nella parte dell'esperienza. Quindi il problema fondamentale, però, tornando alle critiche da cui siamo partiti, quelle espresse da Gianmarco Manfreda, è che, care aziende, l'idea di metterci sopra un tutor che sappia fare bene il suo mestiere, abbia un'idea di chi si trova di fronte nel coinvolgimento dei ragazzi, come si sente dal tono della voce, è essenziale. Esatto, è la base di tutto. Si chiamano tecniche di employer branding, te lo dico perché voglio fare un po' il fighetto. È il professore della Bocconi qua. Aumentano la reputazione e l'attrattività dell'azienda rispetto ai giovani talenti. È importantissimo. Flavio Gianmarco. Anche una pubblicità all'azienda stessa, se mi mostri un consulente che è assolutamente in grado di fare il suo compito, certo. Flavio Gianmarco, consiglio del vecchio, diffidate il professore della Bocconi, questo parla però poi no, stiamo scherzando. Allora, grazie anche a Flavio Romanelli, grazie a Gianmarco Manfreda, invece Lucisano resta lì, torniamo tra poco. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati qui a occuparci di alternanza scuola-lavoro con i compari Mario e Carlo Alberto, ed è collegato sempre con noi Francesco Lucisano, già capo segretario del MIUR, adesso responsabile nazione esterna all'API. Ci lasci leggere qualche messaggino? E questo dobbiamo fare, perché dobbiamo provocare il nostro Francesco con l'opinione che viene dai precordi delle famiglie italiane. Scrive Stefano: l'alternanza un tempo era la vendemmia, il che mi sembra lapidario e piuttosto efficace. Poi, qui nel nord-est la scuola superiore ha tutor capaci come in Finlandia, anche se Giannino non ci crede. Si capisce perché, però. Quindi, vabbè, è il nord-est proprio über alles. Non ha alcun senso fare paragoni col sistema tedesco, la nostra scuola e il nostro sistema produttivo sono completamente diversi. E torna l'eccezionalismo e la specificità italiana. Funzionano meglio e quindi non bisogna guardare a chi funziona meglio. Esatto, esatto. No, diciamo, questi sono quelli che mi paiono... Però, un commento lì, lavorare e crescere, mischiarsi. Questo mi piace perché è il senso profondo, cioè è scoprire, non è necessariamente andare in un posto che è coerente con quello che tu pensi di avere in testa. No, però è un percorso di apertura, scoperta. Professore Lucisano, consentitemi entrambi. Quello che è la operazione di banalizzazione comica in cui specialista oramai la stampa generalista ha fatto all'indomani è parola d'ordine del direttore. Non voglio roba tecnica, voglio roba che spieghi perché le cose che non funzionano. Classicamente, ecco raccolto subito il pantheon degli orrori, delle esperienze di bambini mandati a pulire i cessi di ignobili ristoranti con jerk pulled e così via. Questo è quello che è avvenuto, capite? Ecco, l'idea è, siamo nelle mani di aziende spregiudicate che utilizzano lavoro minorile, ecco, esatto, bravo, rubando lavoro agli operai. Tu è inutile che fai quel tono di voce. Sui giornali italiani le storie che sono uscite sono quelle, al confronto delle quali la protesta che, di cui ragioni ci ha illustrato Gianmarco Manfreda, sono persino troppo elevate, per così assolutamente dire. Se le argomentazioni della protesta degli studenti sono queste, parliamole, ma mi sembrano fondate, gli adulti, fatemi dire, che non hanno neanche capito le ragioni per cui gli studenti protestano. Ma per questo ti dico che le classi di a me quello che preoccupa di più è che quelli come te, i signori professori dell'accademia, non continuano a occuparsi di dare una risposta, perché altrimenti i programmi di gestione dell'alternanza scuola-lavoro sarebbero fatti meglio e le imprese di cui voi siete consulenti riccamente pagati capirebbero che dovrebbero investire un po' di più in questa roba qui, cosa che invece, come dici tu, non fanno, o no? No, non fanno abbastanza, assolutamente. Fammi dire, la struttura organizzativa dell'imprenditoria italiana non favorisce, perché le imprese medio-piccole poi tutto bravi non ce li hanno. Perché ce l'hanno in BMW? Perché questi hanno un programma di tutto dalla Germania che nasce da 15 anni. Caro ascoltatore del Nord-Est, Germania. Però fammi dire anche una roba. Questa Generation Snowflake, fammi citare anche qua quel bel film Fight Club, che parlava appunto del fatto che questi millennials alla fine sono un po' fragilini, sono un po' dei fiocchi di neve, no? E ragazzi, fatevi un minimo di esperienza anche. Non ce la prendiamo con gli adolescenti bamboccioni, su. E il problema in questo caso è come si organizzano, perché siano come quelle che ci ha descritto lo studente di Roma, ci vuole un'impresa che ci creda, questo è il l'importante punto. È che la politica non però si Francesco indietro. La scuola in quanto tale è capace di coinvolgere le imprese? Guarda, parrebbe di no. Ma parrebbe di no, diciamo che io ho in mente per esempio la Iseo Serrature, che addirittura non ha coinvolto solo gli studenti ma ha coinvolto le rappresentanze sindacali nella costruzione dei percorsi di alternanza. Cioè, in mente la Nuova Opinione, che ha un laboratorio costruito apposta a Firenze per ospitare i ragazzi. Ho in mente le tantissime imprese agricole della Piana di Gioia Tauro, che intorno a un istituto tecnico si sono raccolte a prendersi 2, 3, 4 studenti alla volta per fare un'alternanza disseminata nel territorio per riuscire a rispondere al fabbisogno. Penso che oltre a queste storie vadano anche fatti due conti. Io non sono un matematico, ma quando sento dire che l'alternanza è un'ottima opportunità per lo sfruttamento del lavoro, dico solo una cosa, ma facciamoci due conti. 200 ore su 3 anni sono, al netto dei corsi che si fanno in classe, al netto dei corsi obbligatori sulla salute e sicurezza che devono fare tutti gli studenti, sono 2 settimane scarse di assenza dalla classe e presenza eventualmente in luoghi di lavoro. Ora, chiunque ha lavorato in un'azienda sa benissimo che in una settimana un lavoratore non è un lavoratore, nemmeno se è un adulto, ed è evidente che il tempo che si passa in azienda è un tempo fatto per imparare. È importante passare il messaggio che non c'è nessun legame tra l'alternanza scuola-lavoro e, ad esempio, l'abuso dei tirocini e degli stage, che purtroppo è un fenomeno negativo, ma proprio perché non ci sono i numeri, i tempi perché questo avvenga. E quindi scansiamo qualche dubbio di questo tipo. L'alternanza è la prosecuzione della scuola con altri mezzi, se possiamo dirla diversamente. E qui mi attacco a un altro punto che è stato evocato, la coerenza con il percorso orientativo, con il percorso scolastico. Ma noi sappiamo benissimo che non puoi formare nella scuola secondaria delle persone alle mansioni che faranno sul luogo del lavoro 10, 15, 30 anni dopo, perché mentre è falso che i robot distruggono i lavori, è vero che la tecnologia cambia le mansioni. Quello che ci interessava è che è il problema della scuola italiana è il fatto che i ragazzi nostri non hanno le skill soft, che sono quelle del lavoro in gruppo, quelle del rispettare gli orari, quello dell'etica del lavoro, quella della... questa roba qui noi ce la siamo messa sul tavolo. Che sono prima ancora delle competenze specifiche, sono gli strumenti abilitanti. Assolutamente, e sono trasversali a qualsiasi lavoro, vanno bene anche quando si pulisce per terra, perché i modelli organizzativi comportamentali di base sono niente, per Carlo tutti. Alberto, c'è un cliente che ha fatto al transito con lavoro per impugnare il pulisce, questo è tradotto, questo non è il massimo. Tradotto però, è questo. Però anche in termini di orientamento al lavoro, non sempre quello che ti viene fatto fare in alternanza deve essere coerente, al contrario. No, ma su questo deve essere chiaro. Però cito un esempio bellissimo, se posso, ed è il liceo di Reggio Calabria Centro, che aveva un tasso altissimo di ragazzi che si candidava a fare il medico. Poi se ne candidavano in troppi, facevano il test e fallivano ed erano tutti depressi. La preside ha fatto l'alternanza scuola-lavoro in un laboratorio di medico, di analisi. Ha mandato i ragazzi a vedere cosa fanno i medici in effetti. Risultato: un anno dopo è crollato il numero di persone, di ragazzi che si sono iscritti a medicina. Orientamento, ed è aumentato il tasso di successo. Ma orientamento, infatti, come dicevamo prima, mica ci deve essere la coerenza. È una scoperta. Allora, e poi c'è un'ultima cosa, me la devo dire, perché poi se no altrimenti manca un pezzo. Va benissimo che gli studenti si incavolino sulla qualità però non si spiega logicamente, o forse sono io che non ci arrivo, com'è possibile che fai la battaglia sull'alternanza di qualità e poi fai lo sciopero contro i test in balsa. Aspetta, perché aspetta. Della qualità. Fermo lì, forte e chiaro. Lapi non si arrabbierà, perché sabato, quindi invece che stare come al solito a fare sci nautico ai Caraibi, perdi ancora 10 minuti perché ti condanno a stare con noi fino alla fine, perché adesso invece andiamo dopo la pausa a una grande impresa, ma guarda caso che anche lei non ha proprio dietro un paese se non la Germania, ma però che in Italia ci crede molto, e chiediamo a loro perché ci credono molto, e vediamo se rispondono anche sul perché secondo noi tanti ancora piccoli italiani non ci credono per niente. Però pausa e torniamo. Conti della Belva. Allora, sempre su questo tema dell'alternanza scuola-lavoro, perché siamo anche stati confermati nel fatto che avete mandato messaggi tantissimi. Siamo inondati di messaggi. Ma perché tutte le famiglie italiane si pongono il problema, ma mio figlio, di cui ci occupiamo poco e male purtroppo, naturalmente non Carlo Alberto che se ne occupa perfettamente, è un esempio di perfezione, io invece sono terrorizzato, e si sentono il problema, dicono boh, ma questa roba di propongo a mio figlio giusta, sbagliata. Allora è qui per parlarcene Roberto Zecchino è il direttore di risorse umane e organizzazione della Robert Bosch Sud Europa, quindi stiamo parlando di una multinazionale, e loro ci credono come modello in tutti i paesi, tant'è che in Italia, se non mi sbaglio, mi corregga Zecchino, tra il 2016 e il 2017 1000 studenti avete imbarcato in questa esperienza, quindi lo fate sistematicamente, grazie di essersi reso disponibile, perché avete preso il modulo che si fa altrove e lo importate in Italia, oppure come vi siete adattati? Perché quello che ci interessa è, vista la pessima immagine delle imprese che hanno il più delle famiglie italiane, tentare di spiegare questo. Voi come vi siete mossi nell'organizzazione del tutoraggio dell'offerta? Sì, innanzitutto buongiorno e grazie per l'opportunità di raccontare il nostro progetto che si chiama Allenarsi per il futuro. Sicuramente Bosch è una multinazionale, è una fondazione, quindi ci ispiriamo concretamente a quelli che sono i modelli educativi che in Germania esistono da diversi decenni, come l'alternanza scuola-lavoro. Il nostro modello però di Allenarsi per il futuro, grazie anche allo spirito di tutti i collaboratori e coinvolgimento anche di tutte le 20 sedi italiane, è un po' diverso rispetto al modello classico tedesco. Da un lato ovviamente seguiamo la legge della buona scuola, quindi con i tirocini formativi di 200-400 ore, ma lo facciamo attraverso la metafora dello sport. Io concordo con chi diceva che la sfida più importante per i ragazzi che cercano un orientamento per le future professioni e ovviamente e soprattutto a livello motivazionale. Oggi, soprattutto con l'industria 4.0, con le nuove competenze, non sappiamo quelle che saranno le competenze tecniche dei nostri collaboratori, ma siamo sicuri che le competenze comportamentali, no? Quelle che si chiamano le life skills, saranno valide domani e tra 20 anni. Quindi saper lavorare in gruppo, saper sviluppare quelle che possono essere le capacità di rispettare gli altri colleghi di diverse età, di diverse diciamo anche esperienze, rappresenta nei tirocini, ha detto bene lei, noi ne abbiamo offerti oltre 1000 lo scorso anno scolastico, rappresentano una sfida, e lo facciamo attraverso la metafora dello sport, questo anche durante oltre 1000 incontri di orientamento che abbiamo fatto nelle varie scuole del territorio italiano, perché è vero che l'alternanza scuola-lavoro è, dal nostro punto di vista è una sfida, ma è una sfida che anche di recente ha avuto inizio sul territorio italiano. Quindi dal mio punto di vista si stanno facendo dei passi positivi, ovviamente ci sono delle aree di miglioramento sia da parte da quella che può essere l'accoglienza delle scuole, anche degli studenti, ma devo dire, e questo è il mio personale punto di vista, ancora le aziende sono un po' indietro, lo vediamo anche un po' su tutto il territorio. E questo è il motivo per cui, insomma, noi come Radio di Confindustria, ma insomma io al prescindere da Radio Confindustria, la mia opinione personale, visto che la scuola italiana ha un'offerta formativa poco professionalizzante, troppo poco professionalizzante, quando io dico il sistema duale tedesco, gli ascoltatori insorgono dicendo noi siamo italiani, non siamo tedeschi, anche oggi è pazzesca questo ritorno, questa regressione agli anni del primo, secondo, cioè del post prima guerra mondiale. Cioè io trovo che veramente sia un po' singolare questa metodologia, e allora apposta come sempre facciamo è con noi Udo Gumpel, e chiediamo a Udo Gumpel, grazie di essere con noi come sempre, ci dedichi un pezzo del volto sabato, l'impressione che hai tu, che ormai segui, conosci l'Italia, c'hai amici italiani, amici con i figli adolescenti in Italia eccetera, perché l'impresa italiana è così restia ad adottare modelli come quelli adesso abbiamo sentito che anche la Bosch porta in Italia, ma perché secondo te, Udo, noi abbiamo questa distanza e le imprese non capiscono che invece ci si dovrebbero buttare a pesce? Ma secondo me non è neanche un problema principalmente delle imprese, ma è un problema della politica scolastica. Io sono contentissimo di questa alternanza scuola e lavoro, perché siano 200 nel caso dei licei normali e 400 questi istituti, e porta finalmente i ragazzi a conoscere la realtà del mondo del lavoro. È chiaro che questo è un progetto che io conosco, perché c'è un figlio che è più piccolo dei nostri 6 figli, ha 15 anni, dunque lui è l'unico adesso a partecipare a questa cosa. Noi siamo molto favorevoli, perché così il ragazzo conosce veramente la realtà, e purtroppo quello che avete detto, anche il rappresentante della Bosch, io poi non sono pagato della Bosch, né la nostra televisione, perché ormai tutti si sospettano di qualsiasi cosa. E credo che poi anche la nostra televisione è una fondazione vera, effettiva, non fittizia, non risparmiare i soldi, anche il gruppo RT e il gruppo Bertelsmann è una fondazione, e comunque anche noi abbiamo questa idea che i ragazzi devono essere avvicinati il prima possibile al mondo del lavoro. Certo, il modello tedesco è diverso, perché c'è metà dei ragazzi fa fino alla maturità, metà dei ragazzi a 16 anni entra nell'azienda facendo 2 mesi in azienda, 1 mese a scuola. Ohimè, collegamento del treno caduto, persi. E quindi però, io ringrazio, però questa roba qua che in Italia verrebbe presentata come l'asservimento a Stalag 17, è una cosa fenomenale. Francesco Lucisano, vedremo mai un ministro al MIUR capace di proporre qualcosa di simile, sapendo che poi lo vanno ad assediare e lui resiste? Io qualche ministro l'ho visto, insomma, e ci ho lavorato, e continuo a rivendicare che ci fu una scelta di grande coraggio, che all'inizio fu sostenuta con molta forza da tutto il governo. Vorrei tornare su questa cosa della Germania, che io sono nato nell'anno della nostra vittoria sulla Germania, quindi forse me la porto un po' di sana rivalità con i tedeschi. Sì. Quando diciamo che noi siamo diversi, quando diciamo che in Italia in realtà è normale che l'Italia abbia una divisione per piloni tra prima si studia e poi si fa, di fatto stiamo completamente tradendo le nostre radici e la nostra costituzione. Ecco, faccio l'ideologo, però io mi ricordo che c'è scritto fondata sul lavoro da qualche parte in un testo importante della nostra convivenza civile, numero uno. Numero due, l'Italia non è solo Benedetto Croce, l'Italia è secoli e secoli di botteghe, di tecniche manuali, cioè, di fare il motivo per cui la nostra ricerca e sviluppo non si vede spesso è perché è mischiata, è impastata nel tessuto delle imprese. Grazie a Francesco Lucisano, speriamo che sia tu quel ministro un giorno o l'altro. Grazie naturalmente alla Bosch, grazie a tutti i compari. Stringiamoci a corte l'imposta.